Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Versi elementari, poesie dall'isolamento, recital multimediale, omaggio alla poesia civile e politica di Sant'Enotar Nicola, con Francesco Colella, Ascanio Celestini, Valerio Evangelisti, Elio Germano, Pino Cacucci, Rufo Ism, Delia Bellanova, Chiara Galignano, Giancarla Rotondi, Alessandra Cecchi, Anime Noctis, Massimo Sannelli, Silvia Marcantoni Taddei, Nino Cannatà, gli attori detenuti dell'Istituto Penale per i Minori Meucci di Firenze diretti da Claudio Suzzi e con i contributi musicali di Assalti Frontali, Luca Mascini, Gang, Marino Severini, Pantaleo Annese, Gigi Cardigliano. Mi sono svegliato verso le 6. Il cielo lattaginoso, pesante, afa e umidità. Ho dormito col braccio sotto il cuscino e mi duole il polso. Un dolore che si ripete e ogni volta mi torna alla mente il direttore del carcere di Volterra 20 anni fa. Lei ha troppi legami esterni, ne fanno quasi un intoccabile, ma io saprò piegarla, la farò trasferire all'isola di Favignana, dove le celle sono sotto il livello del mare. In breve, 2 o 3 anni, lei sarà gonfio di umidità e di dolori. Ci vuole un po' di più di tempo per i reuma. Preparo la napoletana e intanto che scende il caffè mi sbarbo. Ci va ancora un'ora prima che i carabinieri vengano a prendermi, arrotolo uno spinello. Da un anno sono passato al tabacco forte. Al pronto soccorso, la notte che temetti un infarto, il medico mi consigliò di attenuare il fumo. Poi lo sguardo gli scivolò sugli schiavettoni, sulle catene che il carabiniere più giovane aveva poggiato tutte sul mio petto. 2,5 chili di ferro. Su quel ferro si incontrarono i nostri sguardi. Il medico confuso disse: capisco. Il caffè è sceso, con la napoletana non è granché. La moca la proibirono nelle sezioni speciali dopo la rivolta di Trani, per uso improprio. Piene di tritolo diedero tutt'altro caffè. Sono passati 6 anni e non ce le restituiscono. Hanno memoria storica, loro. Sono pronto, non mi resta che attendere. Il taccuino è sullo sgabello con i versi scritti ieri sera. Sono della serie La grande svolta. Cosa intendi per grande svolta? Ha chiesto ieri Tonino. Ognuno ne vive una, ho risposto vago, e questa la sento più grande. Con la grande svolta venne la restaurazione. E furono necessarie le pietre e gli acciai. Smarrimmo alla svelta gli scopi e non fu possibile vivere sopra le righe. In un angolo una donna tutt'oggi aspetta. Una lacrima lunga scivola via, troppo lunga da asciugare. 6 anni fa c'era più chiasso di primo mattino. Nei 4 piani rigidamente divisi per organizzazioni di appartenenza tra militanti e relativi simpatizzanti si superava i 100 elementi. Adesso c'è più silenzio, siamo 20 in tutto, lo stesso numero altrove. Nella cella dove vivo da 3 anni si è impiccato Francesco Berardi. Caro, caro compagno, i morti camminano in fretta, diceva un tedesco. Non per tutti. Mi succede spesso di camminare con loro, li sento al mio fianco, i morti. Spesso certe mattine d'inverno, quando scendo solo nel cortile del carcere. Più di tutti mi si affianca Martino, ucciso nel dicembre 76. 20 anni fa gli misi in mano alcuni libri nel carcere di Volterra. Discutemmo per 4 mesi nelle celle di punizioni, aperte solo per noi due. puniti ai primi di settembre, ci fecero uscire il 31 dicembre, pallidi, magri, con la testa piena di idee e soprattutto pensieri di fughe, ma eravamo soli allora. Poi ci perdemmo di vista, carceri diversi, obiettivi identici. Lui ebbe fortuna, fuggì dal carcere di Lecce, entrò nei NAP e fu ucciso nel corso di un'azione. Da noi, in questa storia, solo i morti non hanno deluso, una verità che brucia. Ore 8, il guardiano apre la cella, al piano terra la solita scorta di carabinieri, sproporzionata. Il furgone blindato, un'ora di strada per Torino. Nel blindato due minuscole gabbie chiuse da una grata fitta, ma qualcosa si vede della strada. Ecco Torino, pezzetti del Valentino, brandelli di Corso Vittorio, via Roma, tumulti e tenerezze. Sono passati 20 anni, 8 mesi e un giorno. Osservo ogni angolo, osservo ogni strada, osservo, osservo. Osservo, tutto invecchiato, di 20 anni, 8 mesi e un giorno. Via San Domenico, il tribunale. Una rampa di scale e carabinieri, carabinieri, poi una gabbia. Dentro ne trovo altri come me. Ciao, ciao, da dove vieni? Ivrea, e tu? Cuneo. Affidamento sociale? No, semilibertà. Mi mancano 3 mesi, ne ho scontati 6 ed è la terza volta che vengo. Tu? Faccio un gesto vago. Rumori di catene, sedie spostate, avvocati. L'avvocata Bianca Guidetti Serra mi vede, veste un completo rosso e ricevo il primo sorriso del giorno, misurato, ma è un sorriso. Mi riconosce? Ho capelli tutti bianchi. Che dice? Non è cambiato. Perdono la bugia, lei si piega sulle carte. Potrei uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Potrei uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Devo tutelare identità e dignità. Dico frettolosamente. E estraniato, penso. Non ho nulla da vendere. Ci ho messo 50 anni a diventare comunista. E 20 anni, 8 mesi ed un giorno di prigione. E 11 anni di carcere, di massima sicurezza. E 5 anni di celle punitive. E la posta censurata. E i vetri divisori ai colloqui. Per 3 anni non ho potuto accarezzarti, Severina. E le cariche dei carabinieri nei cortili delle prigioni. E il sangue nelle celle. E il sangue dal naso. E il sangue dalla bocca. E i denti rotti. E la fame alla Sinana. E il silenzio obbligatorio al bunker della centrale a Cala d'Oliva. E i racconti dei torturati. I colpi contro le porte per non farti dormire. E i colloqui respinti, senza un motivo. E la posta sottratta. E il linciaggio del vicino di cella. E il vivere col cuore in gola. La pressione che sale. E il cuore che senti ingrossare. E il compagno che se ne va con la testa. E le divisioni a 5 unità nei cortili. E le rotture politiche. E le divisioni che teoricamente avrebbero dovuto rafforzarci. E il dilagare del soggettivismo. E i vetri infranti ai colloqui. E le rivendicazioni coi pugni chiusi. E la ritirata strategica. E gli scioperi della fame condannati. E i sorrisi spariti. E i soggettivisti sconfitti. E gli odi tra i compagni. E le demolizioni personali. E la disgregazione umana.

Seguono i compagni romani, tra i pochi rimasti a considerare la centralità operaia, la dittatura del proletariato, la conquista del potere politico, dei borgatari, pensate. Davanti corre un compagno sardo, anni fa aveva più capelli, anche i baffi erano più scuri, gli occhi, quelli sempre ardenti. Sul tardi preparo la battuta beffarda per i compagni di Centocelle dell'Alberone, per dare così una svolta alla giornata nostra. Imprigionati qui, noi viviamo, sapete. Ciao a tutti. Canto per Sante questa canzone perché vorrei con questa canzone riportarlo a casa. La nostra, quella degli uomini liberi, dei banditi senza tempo. Un tempo fu un bandito, bandito senza tempo, uccise un presidente, né per gli altri cento, e forse fu a vent'anni, o forse due di meno, era con Gaetano Bresci, sopra una nave lungo il Tirreno. Giocarono a 3-7, 3-7 con il morto, il terzo era un gendarme, il quarto re, dal fiato corto. Un tempo fu a Milano, dove si va a lavorare, c'erano tante bande, quante banche da rapinare, e forse fu per caso che con Pietro Cavallero fece la comparsa in un film in bianco e nero. Gli diedero fucili e pistole di terza mano, un passaporto falso per fuggire via lontano. Forse per coraggio si fece catturare alla catena di montaggio. Quel tempo chi lo ricorda, lo Stato aveva mal di cuore. Così è Renato Curcio, chiese in prestito nuove parole. Con quelle parti all'assalto, di nuovi mulini a vento, incontrò anche un sorriso lungo la strada che porta a Trento. Un tempo, questo tempo, con un'arma un po' speciale, una Magnum Lespone, para canzoni che fanno male. Ora ha una nuova banda e un fazzoletto rosso e nero, quando attacca il codello a saltare il mondo intero. A un tempo fu un bandito, bandito senza tempo, veniva con la pioggia e se ne andava via col vento. Sante. arcobaleno. A questo punto è necessario, indispensabile, far cessare i soliloqui aggressivi, le certezze ottuse, gli scetticismi e i momenti morti. Bisogna dare spazio alla calma e senza barare stendersi nudi sulla terra e smetterla di scommettere sulla tenuta di un sacchetto di plastica. Concentrarsi bisogna sui movimenti degli astri, sui meccanismi della distillazione e contare altre stelle e ricordare altri cieli e raccontare altre storie, fino a quando poi l'arcobaleno torna ad inchiodarci come da ragazzi incantati. Venne il tempo della tragedia, deciso sterzai a sinistra. Niente, la vita mi prese tradimento, è destino viverla sino in fondo. Ai, spezzati cristalli del cielo, voglio annaspare, voglio vedere se splende sempre bella la luna. Qualche tempo dopo il mio arresto, avvenuto il 3 ottobre del 1967, un agente di custodia mi passò dallo spioncino della sezione di isolamento di San Vittore una penna e un foglio di carta. Può scrivere alla sua famiglia, se vuole. Dopo un'ora tornò a ritirare la penna e il foglio. Bianco. Non dissi una parola. Non dissi una parola. Poi non mi ci volle troppo tempo per capire che il foglio di carta sarebbe stato uno dei pochi strumenti che mi avrebbe consentito di non farmi seppellire definitivamente nel buco nero dell'ergastolo. Dunque, poesia come strumento di agitazione, poesia per comunicare in condizioni difficili, poesia per rompere l'isolamento a cui vorrebbero costringere corpo e cervello, poesia come difesa dall'abbruttimento della prigione, poesia per amare ancora, per vivere una vita ugualmente complessiva, poesia, poesia capace di riprodurre l'antico urlo, quello che qualche volta spazzò via il muro di cinta e con esso le catene rinferriate. Altro non può nascere, né deve nascere, neppure in forma di versi, dalle prigioni. Nel cortile a San Vittore, un albero di pietra. Nel centro a San Vittore, un Cristo di pietra. Nelle celle a San Vittore, tre fiori di pietra, pensieri di pietra a San Vittorio. Incasellai nella mente sguardi, fiori e uno spicchio di cielo. La pianura addormenta l'anima, ma la prigione resta ferma sulla collina. Dopo tentai di gettare l'anima al di là del muro, zelante il guardiano me la sbatté sul muso. Come una vecchia amica, torno ancora la pioggia a battere il tempo sul selciato. Era terra, la riceveduta nel crepo, mentre sorridono gli alberi nel respiro della primavera. Anch'io mi appresto a ricevere con questa anima inquieta, che smania e che vuole correre nei prati appena bagnati. Il guardiano più giovane ha preso posto davanti alla mia cella. Dietro quel muro mi ha indicato il mare di azzurrissimo per farmi morire un poco. Il guardiano giovane mi ha detto questo. Là, dove era più umido, fecero un fosso enorme e nella roccia scavarono nicchie e le sbarrarono. Alzarono poi garitte e torrioni e ci misero dei soldati a guardia. Ci fecero indossare la casacca e ci chiamarono delinquenti. Infine vollero sbarrare il cielo. Non ci riuscirono del tutto. Altissimi, guardiamo i gabbiani che volano. Il silenzio della prigione rumore di vetro infranti. Verrai domani? Questa notte non passa mai. L'arpa intuccia solo montagne. E poi a batuffoli, la notte impoverisce. E tu, chi gliela affronta? Ora l'arpa è tutta nella tua grembe. La notte è passata. Verrai. Con quello basso, che danza, alla fala fala, è mancato, solo dando un po' di brusio di ego. È plana, è lieta, verso sé. Nelle poesie di Sante io ho ritrovato i miei poeti, Montale, Ungaretti, Leopardi, Caproni, così, i poeti che più ho letto e più ho amato, e soprattutto nelle poesie di Sante, da quando Sante non c'è più, ritrovo i suoi occhi, ritrovo la sua gentilezza, anche la sua stanchezza, e soprattutto ritrovo il suo coraggio, la sua rabbia e la sua forza. Ma allora voglio leggere questa poesia che si intitola Esausto. Il titolo è Esausto e dentro la poesia però sentiamo una forza vitale, quella di quel urgente urlo di cui appunto parlano i suoi versi. Uno squarcio di libertà da invocare su strade con angoli troppo acuti. È sempre urgente l'urlo di grandi voglie, di sterminati prati, di sterminati cieli, di sterminata calma. Questa poesia l'abbiamo usata in un laboratorio con i ragazzi del carcere minorile di Firenze, un laboratorio che abbiamo svolto a luglio. Ed è stato emozionante vedere come i ragazzi si sono riconosciuti in queste parole, come queste parole sono diventate le loro parole. Foglio bianco. Qualche tempo dopo il mio arresto, avvenuto il 3 ottobre del 1967, un agente di custodia mi passò dallo spioncino della sezione di isolamento di San Vittore una penna e un foglio di carta. Può scrivere alla sua famiglia, se vuole. Dopo un'ora tornò a ritirare la penna e il foglio, bianco. Non disse una parola, non dissi una parola. Poi mi ci volle troppo tempo per capire che il foglio di carta sarebbe stato uno dei pochi strumenti che mi avrebbe consentito di non farmi seppellire definitivamente nel buco nero dell'ergastolo. Lo capii talmente bene che dopo 4-5 anni davo alle stampe il mio libro L'evasione impossibile, che avrebbe segnato per sempre la mia esistenza di detenuto e anche quella di molti altri giovani. Il mio carcere, quello trovato alla fine degli anni 60, era semplicemente inaccettabile. Un carcere fortemente autoritario, dove accanto ai mille doveri che segnavano la mia giornata non c'era un solo diritto. La ribellione a quel carcere fu immediata e totale. E sulla cartella biografica i carcerieri stampigliarono la definizione che mi avrebbe accompagnato per tutti i 21 anni della detenzione, sobillatore. In realtà feci parte di una generazione di detenuti che furono dei rivoluzionari e che partendo dal nulla conquistarono attraverso lotte durissime tutto il possibile. Lotte inimmaginabili che costarono celle punitive lunghe anche anni, processi, linciaggi, morti. Individuammo le forze progressive, quelle più sensibili e attente alle vicende del prossimo, specie se emarginato, e quel dialogo intrecciato tanti anni fa dura tuttora. Tutto servì a stimolare e a creare una cultura del carcere, e la poesia, per il suo modo diretto di comunicare, divenne uno strumento anch'esso importante. Dunque, poesia come strumento di agitazione, poesia per cominciare, per comunicare in condizioni difficili, poesia per rompere l'isolamento a cui vorrebbero costringere corpo e cervello, poesia come difesa dall'abbrutimento della prigione, poesia per amare ancora, per vivere ugualmente una vita complessiva, poesia. Poesia capace di riprodurre l'antico urlo, quello che qualche volta spazzò via il muro di cinta e con esso le catene e le inferriate. Altro non può nascere, né deve nascere, neppure in forma di versi, dalle prigioni. Il dizionario. La fase era mutata. Soprattutto nelle prigioni lo Stato mostrò il volto feroce della socialdemocrazia. Passò agli arresti di massa, alle torture, all'isolamento più stretto, tutto per fiaccare la volontà dei prigionieri. I guardiani saccheggiarono le celle. Infine mi presentarono la lista delle privazioni. Da oggi un solo libro, lo scelga. Il vocabolario. Il vocabolario mi sembrò la scelta più ragionevole per pensare, per amare, odiare e resistere e magari vivere la notte e consumarla tutta intorno ad una sola parola. Questo secondo scritto, questa poesia di Sant'Enotar Nicola, la prima, come dire, il primo testo si commenta da solo perché è soprattutto un racconto e anche un commento. Ma questa poesia, che è centrata apparentemente in maniera paradossale sul vocabolario, no? Su questa idea un po' come cosa porteresti su un'isola deserta, cosa riporteresti dietro, ecco. E il carcere è un po' un'isola deserta, è un'isola nel senso proprio vero, insomma, spesso è più isolato il carcere di un'isola, è un dentro senza nessun fuori, in qualche modo, perché quello che sta appena fuori dal carcere, quello che sta immediatamente fuori dal carcere, è completamente invisibile per chi sta dentro. Dunque è davvero è un isolamento che isola più di un'isola deserta. E questo unico libro, il vocabolario, non è solo un libro che in maniera un po' acrobatica li contiene tutti perché contiene tutte le parole, perché chiaramente contiene le parole ma con il loro significato più freddo, senza i legami che le parole producono quando vengono messe tutte in fila una all'altra, un po' come tante singole note che non compongono una vera musica, ma sono soltanto dei segni isolati. Ecco, invece il vocabolario è qui in quest'ultima frase, lo dice in maniera chiara, per pensare, per amare, odiare e resistere, magari vivere la notte e consumarla tutta intorno ad una parola. Ecco, questo mi ha fatto pensare ad altri isolati, ai baraccati dell'Appio Claudio, che vissero nelle baracche, a maggior parte abruzzesi, vissero nelle baracche costruite come un gallinaro, come un presepio, qualcuno diceva, e sotto gli archi degli acquedotti, in questa periferia di Roma, diciamo vicino Cinecittà. Ecco, le centinaia di baracche, baracchette, case abbarbicate, attaccate a questo acquedotto, in tutte quelle case ci vivevano migliaia di persone. E nel 1968 ci andò a vivere anche un prete, si chiamava Roberto Sardelli, e Don Roberto Sardelli decise che il suo 68 era quello, cioè andare a vivere tutto sommato come richiedeva, insomma, l'insegnamento anche di Gesù Cristo, ma come richiedevano i tempi, andare a vivere davvero con gli ultimi, quelli che stavano, anzi, dopo gli ultimi. Finite le case Fanfani, Cinecittà, del Quadraro, c'erano i Montarozzi, e oltre quei Montarozzi c'erano quelli che... c'era la città, come dice Pasolini, no? Dove sembra che la città finisca, invece ricomincia. Ecco, lì ricominciava un'altra città con quegli ultimi. E lui va lì e non gli porta vestiti, non lo so, o cibo anche, e tutto sommato neanche i libri, gli porta proprio una scuola, la scuola 725, che era il numero della baracca. Baracca 725 ci fa una scuola, e i libri che stanno in quella piccola scuola, la scuola 725, sono la lettera ad una professoressa, sono la biografia di Malcolm X, sono Americani e Viet Cong, ma il libro più importante era proprio il vocabolario, tant'è che con i ragazzi di questa scuola 725, Don Roberto Sardelli, questo prete rivoluzionario nel 68, scrive anche una lettera al sindaco di Roma, come capo della città, e ci metteranno mesi a scrivere questa lettera con i ragazzi, con i bambini, i ragazzi di questa scuola di Baraccati, ci metteranno mesi proprio perché studiano ogni parola, scelgono ogni parola, o come dice la poesia di Sante, pensano, amano, odiano, resistono attraverso ogni parola cercata, pescata, studiata nel vocabolario. Un libro importante, in un certo senso anche poetico. Grazie. Mattinata. È tempo di darsi un progetto per il giorno, perché regga la volta del cielo. Resta da vedere come sostenere tutto l'azzurro. Di certo non basteranno gli olmi e i ciuffi di vischio, né le radici, le primule, se sono sette i cieli. E sai, stamane è di un verde struggente tutta quanta la brughiera. Palmi, 2 novembre 1980. A Sante, amico, compagno, maestro, poeta. Quando Sante fu arrestato avevo un anno e quando ce n'avevo una ventina ero cresciuto appunto anche io leggendo quel libro bellissimo che è L'evasione impossibile e soprattutto leggendo le sue poesie, bellissime anche quelle, soprattutto quelle brevi, perché lui faceva delle poesie brevi che erano fulminanti. E io, insomma, insieme a tanti altri ragazzi che avevano 20 anni a quei tempi, alla fine degli anni 80, quando lui uscì di prigione, amavamo appunto Sant'Eleonora Nicola perché ci raccontava della prigione attraverso la poesia, e quindi la poesia l'aveva fatto veramente evadere. E quindi ci capitò una volta che stavamo leggendo, cioè che guardavamo, eravamo anche innamorati di tutti i libri, di tutto quello che usciva, eccetera. Però in particolare quando vedevamo ad esempio delle riviste che parlavano tanto di politica, come ad esempio c'era Politica e Classe, quello che veramente ci catturava era sapere che c'era Sant'Eleonora Nicola scritto sopra, perché ci sarebbe stata una sua poesia. E quindi poi dopo la leggevamo appunto velocemente andando a cercare Sante, e quando abbiamo trovato appunto la poesia di Sante che usciva di prigione, ne abbiamo fatto un rap che poi è uscito sul disco di Onda Rossa Posse. E in realtà noi non avevamo detto niente a Sante, non gli avevamo chiesto, ce l'avamo presi la poesia e l'avevamo fatto la canzone, come un po' si usava, come avevamo l'idea appunto che le parole erano di tutti. E quindi quando poi lui poi è uscito e stava un po', si affacciava nella realtà, noi un po' lo temevamo perché dicevamo, oddio, mo se Sante si arrabbia, che noi gli abbiamo fatto un rap, che ne sappiamo? E a un certo punto ci arriva un foglietto da un compagno di Roma e ci dice, guarda, Sante vi vuole parlare, e ci dà il suo numero di telefono. E così lo chiamiamo e lui ci fa, compagni, ma venite a trovarmi, lui non si poteva muovere, stava a Bologna, venitemi a trovare a Bologna. E noi siamo andati lì, abbiamo preso il treno, siamo stati da lui a pranzo e effettivamente pure lui ci ha accolto con questa cosa che ci ha fatto mangiare. E abbiamo trovato, siamo rimasti proprio spiazzati, ci ha insegnato veramente cosa voleva dire l'umiltà. Cioè una persona che aveva fatto la storia della lotta politica in Italia, che parlava con noi che eravamo dei ventenni, dei ragazzini, come veramente eravamo, come fossimo i suoi fratelli. Ci ha portato dentro la sua casa, ci ha detto, ci ha fatto e soprattutto ci ha comunicato questa cosa che si sentiva solo, cioè noi lo sentivamo questa sua solitudine. E quindi attraverso la musica, attraverso il rap, pure quella, la nostalgia e la memoria che lui canta su quella base che ha fatto in un nostro disco, è un po' come se avesse cominciato una nuova vita, e di questa cosa ne siamo veramente una delle cose belle appunto di tutto quello che abbiamo fatto, perché Sante è venuto ai nostri concerti e davanti ha rifatto pace un po' con la realtà, che lui sentiva veramente, considerate che era entrato nel 1967 in prigione, quindi arriva praticamente negli anni 90 che è cambiato tutto quanto. E quindi con la musica fa pace un po' con la realtà e ritorna ad abbracciare tutti quanti, a sentirsi parte di una comunità, ecco. E questa è forse è stata la cosa più bella. E oggi, quando sento appunto queste sue poesie, mi chiedo se le sue poesie potrebbero essere efficaci anche per le nuove generazioni, per quelli che hanno 20 anni adesso. Sarebbe veramente bello, come lo fu ad esempio il rap alla fine degli anni 80. Tantissimi ragazzi appunto mi dissero: ah, abbiamo conosciuto Sante con questa canzone, adesso hanno preso appunto, hanno cominciato a scavare. Sarebbe bello appunto far conoscere appunto le poesie di Sante alle nuove generazioni, come è stato fatto lì nel carcere. E questa è la nostra canzone che vi canto. E magari tanti la conoscono, però insomma, io per tanto tempo all'inizio la cantavo, poi a un certo punto ho smesso di cantarla, un po' perché tutti i compagni erano usciti di prigione e quindi la sentivo meno urgente come da fare nei concerti. Allora un giorno andai a Bologna, c'era stato Genova, quindi c'erano altre cose, c'erano altre urgenze da comunicare, da dire, da raccontare. E facemmo il concerto e poi andammo a trovare Sante a Mutenie e gli dissi: Sante, parlammo, eccetera. Poi a un certo punto gli dissi: Sante, ma lo sai, però non abbiamo fatto la tua canzone al concerto. Lui mi disse: hai fatto bene, perché devi sempre andare avanti. E così, vabbè, per un periodo. Invece ultimamente la stiamo facendo ed è bello che le nuove generazioni riapprezzino certe cose, riconoscano Sant'Enotarnicola. La canzone è quella, tra l'altro, che ha letto anche Elio Germano prima, è tratta da quella poesia che ha letto Elio Germano prima, che è molto più lunga, molto molto più lunga. Noi abbiamo fatto appunto un sunto e l'abbiamo resa una canzone che si chiama Omaggio a Sante. È il mio turno, entro intorno, tutta l'aula si zittisce, io rispondo prima piano, monosillabi, mi sento rilassato, all'improvviso rilassato, mentre spiega quel PM, spiega il giudice la storia, arrestato per la vita, 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni, passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra, il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è cambiato, potrei uscire di prigione, sì, ma non è obbligatorio, troppo, troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, è il mio turno, potrei uscire di prigione, ma non è obbligatorio, vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle, denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, vetri e vetri divisori, vetri infranti nei colloqui e la posta che è sottratta, censurata, poi la fame, fama alla sinara e il compagno che va via, via con la testa, divisioni, rotture, ci doveva rafforzare, pugni chiusi nei processi, ritirate, tradimenti, tanti odi e poi isolati, mentre conti i giorni invece se ne vanno, mesi, anni e silenzi, troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, è il mio turno, potrei uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Il mio avvocato a fianco scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce, i giudici parlottano tra loro, sì, e poi dicono, lei uscirà. Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle, i compagni, troppi, ancora imprigionati, mai li lascerò, mi dicono sta in forma, questi miei compagni vanno amati, rispettati, liberati. Quando un autore dice, come Cesare Pavese, nel mio mestiere sono re, dice la verità. Nel mio mestiere sono re perché ho il controllo della mia materia ed è un controllo estremamente disciplinato. Quando l'autore re decide di pubblicare, fa esattamente quello che il verbo dice, pubblica, cioè va verso altre persone. E pubblicare non è un gesto innocente, tutt'altro. Non c'è nessuna mistica della pubblicazione. Pubblicare significa che i miei pensieri devono diventare pubblici perché io, autore, re, ho deciso che lo siano. Quando Sant'Antonio Nicola pubblica, fa esattamente questo, esattamente come ogni poeta, ogni autore. Ma Sante ha una differenza. Sante arriva alla letteratura da non letterato e fa letteratura in italiano, cioè nella lingua dei signori, perché, che lo si voglia o meno, la letteratura italiana è per statuto da sempre una letteratura di signori in lingua di signori. Per questo Sante chiede di tutti i libri il dizionario, per poter odiare meglio, anche amare, ma soprattutto odiare. Vedete, noi tendiamo a pensare che l'odio sia un sentimento molto primordiale, quasi animalesco. E invece no, anche l'odio ha bisogno di una certa struttura intellettuale. Sante non è il doloroso caso umano che, poveraccio, dopo infinite disgrazie, arriva alla tranquillità lirica della letteratura. Sante arriva alla letteratura con la consapevolezza di chi vuole essere poeta. Poeta a tutti gli effetti e poeta nella lingua dei signori e poeta con tutti gli stilemi che competono a un poeta. Per esempio, c'è una poesia dove dice che hanno eretto muri e poi ci hanno messo soldati a fare la guardia. Alla fine della poesia, Sante dice: altissimi, guardiamo i gabbiani. Altissimi è riferito ai gabbiani e ai prigionieri. È così anteposto rispetto ai gabbiani che potrebbe essere anche riferito ai prigionieri, ma questa è una scelta retorica. E poi guardiamo, dopo aver detto guardia, cioè il sostantivo si è trasformato in un verbo, e il sostantivo era riferito a chi opprime e il verbo è riferito a chi è oppresso. Ma l'oppresso si è appropriato della lingua e comunica. Non è il solo caso. Sante non è un poeta casuale. Sante è un poeta a tutti gli effetti e con tutte le sicurezze tecniche e mentali di chi vuole essere assolutamente un autore. Dobbiamo in qualche modo a Sante la nascita del nostro duo di Sandro Stevento di musica e poesia, perché nonostante ci conoscessimo da una vita, la prima volta che ci siamo trovati insieme sul palco è stato grazie a Sante e insieme a Sante. Infatti Sante era stato invitato a un'iniziativa in Piazza Verdi a Bologna in cui avrebbe dovuto leggere le sue poesie e con il suo solito spirito collettivista aveva deciso di non andarci da solo ma di coinvolgere in questa cosa altri compagni e compagni, soprattutto giovani. E così tra le persone a cui aveva chiesto di leggere qualche poesia c'ero io e aveva chiesto invece a Domenico di fare l'accompagnamento musicale. Infatti la poesia che abbiamo scelto di proporvi, Comunismo, ha una duplice valenza, in primis storico-politica e in secondo luogo anche affettiva, perché durante quell'iniziativa, di comune accordo con Sante, decidemmo di musicare e portare sul palco anche Comunismo, lui alla voce e alla lettura e io alla chitarra. Comunismo. Accigliato sotto il peso di strutture vergognose. La poesia ha spazi ristretti in questo nostro tempo e la sola nasce fiera soltanto dalle officine e dalle prigioni. Sfruttare sera dell'estate lunga meridionale, chiuso in una cella della prigione speciale di Trani. Trani, 16 settembre 1982. Sante notar Nicola, consummatum est, a Primo Levi. È stato freddo e feroce l'inizio di questo aprile, deturpato dai silenzi che scuotono, inseguono e ci riportano i ricordi originali, quando, leggendo il possibile, tutti quanti ci schierammo. Auschwitz, la fine dell'infanzia. Un'ombra lunga sui giochi interrotti e mai più ripetuti. Ma rimane il ricordo del gallo di metallo, trafitto dalla banderuola di latta che vibrava al soffio del vento. E questo aprile così duro ha il colore dello sterrato. Tarda a passare e ci costringe spalle al muro, al silenzio, perché tutto possa consumarsi. Nel 2013 ho messo assieme una raccolta di tanti miei scritti dal titolo Un po' per amore, un po' per rabbia. E qui c'è un capitolo dedicato a Sante Notar Nicola, alla sua opera letteraria e poetica, e il capitolo si intitola Materiale interessante, che è poi il titolo di un suo libro, e qui narro di come Sante mi fece questo gran regalo, la lettera di Primo Levi scomparsa e poi riapparsa, e vi leggo la parte finale, appunto, la lettera di Primo Levi. Quando era in carcere, per Sante Notar Nicola la scrittura costituiva anche un contatto con la realtà esterna, attraverso una fitta corrispondenza con tante persone. Tra queste ci fu anche Primo Levi, che spesso gli mandava libri, superando faticosamente le maglie della censura e dei regolamenti del carcere speciale. Dal 1979 a oggi Sante ha sempre ricordato, in particolare, una lettera di Primo Levi che a suo tempo era sicuro di aver consegnato a Bianca Guidetti Serra, allora suo avvocato, ma niente, chissà dove era finita. Pensò fosse andata perduta in uno dei numerosi trasferimenti, assieme a un'infinità di frammenti di memoria. Poi, giusto pochi giorni fa, l'ho incontrato casualmente passando davanti alla sua osteria in Via del Pratello a Bologna, e con voce incrinata dall'emozione mi ha raccontato che stava rimettendo ordine tra i tanti libri e da uno è spuntato un vecchio foglio ingiallito, scritto a macchina. Era la lettera di Primo Levi che aveva tanto cercato e che pareva aver deciso di tornare alla memoria viva proprio adesso. E questa è la lettera. Caro Notar Nicola, ho ricevuto le tue poesie solo adesso, alla riapertura degli uffici di Einaudi presso cui giacevano. Le ho subito lette con partecipazione intensa. Tu mi conosci quanto basta per sapere che io non sono d'accordo né con l'introduzione del volume né con la premessa. La tua dedica mi ha toccato e te ne ringrazio. Ma non posso accettare l'equiparazione del carcere coi lager. So bene, e i tuoi versi ne rendono tremendamente l'angoscia, quanto sia duro essere privati della libertà, ma in un lager questa era l'ultima delle sofferenze, percepibile solo nelle poche ore di tregua. Prima venivano la fame, il freddo, la fatica, l'isolamento, la morte intorno. In un lager solo ad Auschwitz morivano 10.000 persone al giorno e queste non avevano commesso altra colpa se non quella di esistere. Il lager non era una punizione, non c'era traccia di giustizia, neppure di quella giustizia borghese che tu, a ragione o a torto, rifiuti e che certo nel tuo caso non sa riconoscere quanto tu sia migliore delle tue teorie e quanto sproporzionata la misura della pena a quella della colpa. Detto questo, devo subito aggiungere che le tue poesie, alcune come sai le conoscevo già, sono belle, quasi tutte, alcune bellissime, altre strazianti. Mi sembra che nel loro insieme costituiscano una specie di teorema e ne siano anzi la dimostrazione, cioè che è poeta solo chi ha sofferto e soffre e che perciò la poesia costa cara. L'altra, quella non sofferta, di cui ho piene le tasche, è gratis. Memorabile fra tutte, addirittura miracolosa per concisione e intensità, è Posto di guardia. Ti ringrazio per avermele mandate. Le rileggerò, le farò leggere e ci penserò sopra. Pensaci sopra anche tu. Forse lo scrivere è il tuo destino e, in molti sensi, la tua liberazione. Primo Levi, 5 settembre 1979. Ti ho scritto stamani la 245esima lettera del 1983. È il mio bilancio per l'anno che passa. Tu, nel 1983, alla prigione, sei venuta 24 volte. Non ti hanno permesso di più. E per 24 volte hai percorso 2000 chilometri. 2000 per 24 fanno 48.000 chilometri. Non dimenticare. Non dimentico. Neppure una volta ti hanno permesso di portarmi del cibo, un libro, un fiore. 48.000 tormentati chilometri. Non dimenticare. Non dimentico. E poi una lastra di vetro e lampi di ferocia a dividerci. Ma tutto questo non ha impedito che crescesse ancora l'amore che mi porti, che ti porto, compagno. Sono stato condannato a 20 anni di reclusione e non ho mai messo in discussione la sentenza. Forse ne meritavo di più, forse meno. Non è questo il problema, ma so da fonte certa che ai tempi del mio processo il presidente della Corte di Assise, Petit, non ha avuto l'integrità che si è in diritto di aspettarsi da un magistrato. Avevo quindi in partenza un rancore personale contro di lui, ma non è stato questo a motivare più di ogni cosa la mia azione. Quando i giurati mi hanno condannato a 20 anni di reclusione, ero da 3 anni e mezzo in un centro di detenzione di massima sicurezza e ci sono ritornato. La massima sicurezza non ho alcuna ragione per accettarla, né per me né per gli altri. E su questo problema che ho voluto risvegliare la gente attraverso un'azione contro Petit. Bisogna capire che la maggior parte dei detenuti, che siano o no del mestiere, accetta il principio di una sentenza, ma non la maggior parte delle sentenze che sono sproporzionate ai delitti commessi. Ho lottato contro gli speciali quando ero dentro e ritengo di non dover tradire, una volta libero, ciò che ero e volevo, e continuerò a lottare. Giacomo Messerin. Ciao a tutti, io sono Pantaleo Annese e vorrei dedicare un pensiero commosso, oltre che questa canzone di Fabrizio De André, a Sant'Enotar Nicola, alla sua memoria. Perché secondo me, visto la vita che lui ha condotto e vista la sua ispirazione poetica e anarchica, è giusto dedicargli una canzone che è anche un pretesto per ricordare insieme a voi quello che è accaduto il 2 settembre del 1970, quando in una cella del carcere di San Vittore,

San Vittore, un Cristo di pietra. Nelle celle, a San Vittore, tre fiori di pietra. Pensieri di pietra, a San Vittore. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Ciao Sante. Ciao, sono Enrico. Ho conosciuto Sante vari anni fa tramite mia madre e oggi sono qui per fare un contributo leggendo una poesia che secondo me lo rappresenta molto, che si chiama Ti voglio bene ed è nel libro La nostalgia e la memoria. Ti voglio bene. Dopo anni di prigione sono ormai un uomo che non teme i sogni, ma pure trasformato nel volto, nell'anima, ho conservato i timori dei bimbi e la tenerezza degli istinti e sgrano gli occhi quando amo, quando senza rossori dico, sai, ti voglio bene. Secondo me questa poesia rappresenta molto Sante perché ci sono due tratti del suo carattere. Uno è quelle paure che gli sono rimaste dei bambini. Ad esempio, quando io giocavo a carte con lui spesso, quando perdeva aveva la paura di perdere e spesso dava la colpa a me dicendo che magari tipo avevo barato, mentre molto semplicemente magari avevo avuto fortuna quella volta. E un altro tratto invece è comunque sempre un'altra cosa dei bambini, come dice in questa poesia, la gentilezza, la timidezza nel dire cose come ti voglio bene. Quando Sante è uscita dall'ospedale prima che venisse a mancare, io avevo scritto una poesia che Delia poi gli ha letto quando è tornato a casa e questa poesia è stata la cosa che io credo di avergli regalato prima che venisse a mancare. Adesso ve la leggo. Sante, per gli amici la coperta che da bambini si usa per proteggersi dai mostri. Sante, non un supereroe, qualcosa di più, un superumano. Sante, che nonostante a carte perda sempre, si ostina a dire che un giorno vincerà. Può sembrare stupido, ma Sante, in qualche modo, vince sempre. A quel tempo, identità e militanza sollecitavano gesti precisi e poche domande. I giorni ruvidi ci spinsero a considerare la vita stessa soltanto un soffio. E per tutti il profilo della montagna non rappresentava una minaccia, era una vetta, solo una vetta. Fu nel reticolo della pianura che, accecati dal nevischio, smarrimmo il sentiero. Qui c'è una strana luce ai piedi della collina. Il giorno nuovo avanza portando con sé altre sfumature e ci troviamo a riflettere sulle parole, sul loro peso. Risaltano i cedimenti. Del resto l'antico progetto si è dissolto nelle nostre stesse mani, lasciandoci in precaria sicurezza. Adesso sgomenti osserviamo con distacco la memoria, i suoi frammenti che scivolano via e si perdono in rivoli vaghi. In ultimo ci resta un breve sorriso per la cicala, tornata nel momento in cui vorremmo vivere soltanto grandi silenzi a tratti rotti solo dalla furia del mare. Questa è una giornata cruda, circoscritta dal movimento che muove il nevischio e quelle turbolenze che squassano fin dal mattino, lasciandoci la confusione delle ore e quei ricordi nostri, quando bambini avevamo soltanto il sole e null'altro, ma indistruttibili, avevamo l'impronta del futuro, più vicini al ferro che alla terra. Poi scoprimmo l'acciaio, che ci portò a vivere i grandi silenzi, rotti per lo più dai passi felpati e ostili dei guardiani nei corridoi delle prigioni, dove con poco cielo mancava l'orientamento e mancavano tutti i colori, tranne quel grigio sporco di anni vissuti gomito a gomito tra fratelli e compagni, dagli occhi, dai cervelli svegli. Imparammo alla svelta a fare i prigionieri. Uscimmo dopo i 20 anni tutti occhialuti, tardi, per mettere a fuoco l'orizzonte e, ancora una volta, ciglio asciutto e pedalare. Questa è una canzone che piaceva tanto a Sante, gli piaceva tantissimo, parlava delle notti, è una canzone in una lingua che non è italiana, è un dialetto del sud, la canzone di un grandissimo amico, un compagno che purtroppo ci ha lasciato un mese fa, e sicuramente gli sarebbe piaciuto molto a lui dedicargliela direttamente a Sante. Roberto Vantaggiato. Roberto Vantaggiato ha fatto questa canzone che in qualche modo l'accomunava tanto a Sante, per questo penso gli piacesse tanto. La notte, il momento più creativo evidentemente dei due, perché oltre che un cantore Roberto era anche un poeta. Te notte, Roberto Vantaggiato. A seguire un testo poetico di Sante, Notti. Sento un po' attenzato. le sue notti, ad una, per scaraventarle tutte nella vita mia. Ma l'erba e i pensieri crescono verdi anche nel buio. Versi elementari, poesie dall'isolamento, recital multimediale, omaggio alla poesia civile e politica di Sant'Enotar Nicola, con Francesco Colella, Ascanio Celestini, Valerio Evangelisti, Elio Germano, Pino Cacucci, Rufo Ism, Delia Bellanova, Chiara Galignano, Giancarla Rotondi, Alessandra Cecchi, Anime Noctis, Massimo Sannelli, Silvia Marcantoni Taddei, Nino Cannatà. Gli attori detenuti dell'Istituto Penale per i Minori Meucci di Firenze, diretti da Claudio Suzzi, e con i contributi musicali di Assalti Frontali, Luca Mascini, Gang, Marino Severini, Pantaleo Annese, Gigi Cardigliano. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Paola Rota, regista dello spettacolo Come tutte le ragazze libere, un tentativo di libertà in una piccola città, a Roma, Teatro di Villa Torlonia, dal 16 al 19 novembre 2021. Ben trovata. Ciao, ben trovato, grazie. Ti racconti di questa storia? Il testo è scritto da Tania Slivar, che è una scrittrice bosniaca, e nasce da una storia vera. Cioè, da una gita delle medie, dei ragazzini e ragazzine di 13 anni, 7 ragazzine di 13 anni tornano incinte. Questa è la storia vera successa a Bagnaluca nel 2014. Tania Slivar, allora poco più che adolescente, nel senso che è una persona molto giovane, all'epoca aveva 26 anni, va a Bagnaluca, che è il suo paese di origine, e cerca di scoprire qualcosa di più su questa storia, come è successo, e non riesce a scoprire niente. In realtà trova proprio un muro di gomma, per cui tutto quello che è sono accuse tra la scuola, che accusa i genitori di maleducazione sessuale, i genitori che accusano la scuola di non aver controllato le ragazze, ma quello che emerge evidentemente che la colpisce è che c'è una condanna a queste ragazze, neanche come individui ma come gruppo, e invece non si parla minimamente dei ragazzi che le hanno messe incinte. E quindi dal fatto che non riesce a scoprire niente, per cui non riesce a fare come voleva un testo che partisse dall'attualità, un testo di ricerca, scrive questo testo di invenzione in cui fa raccontare alle ragazze la loro storia, dà loro una voce ovviamente inventata, che quindi in quanto inventata è anche una voce che racconta di un'idea di famiglia collettiva, cioè racconta che questa cosa di essere tutte incinte è una cosa che le ragazzine hanno deciso perché volevano fare un gesto dal loro punto di vista rivoluzionario, cioè superare l'idea di famiglia nucleare, di famiglia tradizionale. Ha ispirato anche un film, se non sbaglio. C'è questo film che si chiama G7, che racconta di 17 ragazze. C'è stata una cosa analoga in Michigan, cioè 17 ragazze che hanno deciso di essere incinte tutte insieme. L'idea di famiglia collettiva nasce da lì, mentre questa storia di Bagnaluca è più misteriosa. In realtà non si capisce proprio se fosse anche forse un modo per parlare e per fare uno scandalo attorno all'educazione sessuale dei ragazzi, eccetera. C'è una storia veramente abbastanza misteriosa. Cosa ti aveva sollecitato del testo di Tania? Cosa avevi apprezzato? Vabbè, il fatto di parlare di maternità in una maniera così, del paradosso della maternità, andando come in purezza, cioè mettendo delle ragazze di 13 anni incinte, per cui sì, tutto quello che ruota attorno alla maternità, per cui il corpo femminile è un corpo attorno al quale chiunque può dire qualcosa, tranne che chi è veramente incinto in quel momento, per cui era un modo per raccontare dei punti di vista delle cose facendolo attraverso un'età, e questa è l'altra cosa, cioè questa cosa di raccontare i 13 anni, che sono veramente un'età in cui tu sei potentissimo e allo stesso tempo sei fragilissimo, pensi di poter cambiare, è un'età completamente folle, un'età limite, un'età di passaggio, quindi il fatto di mettere insieme queste due cose ci sembrava interessante. Come hai pensato la messa in scena? È un testo attorno al quale giriamo da un sacco di tempo, con Tania, che ho conosciuto, e l'idea di lavorare su questo testo è nata dalla conoscenza con lei, e con Simonetta Solder, che è una delle attrici con cui abbiamo avuto l'idea di mettere in scena questo testo. È ovviamente un testo che ha delle trappole, perché è scritto con un linguaggio che contiene sia il linguaggio adolescenziale, telefonini, turbo trash, eccetera, ma contiene anche invece un linguaggio ovviamente concettuale alto, da Foucault a studi sulla sessualità infantile, cioè quindi è un linguaggio totalmente spurio, quindi è molto difficile immaginare delle tredicenni che parlano in quel modo, e anche se tu ti immagini delle tredicenni è molto difficile capire chi può dire quelle parole, e quindi abbiamo iniziato a pensare e a lavorare con delle ragazzine di 13 anni e con delle attrici che invece avessero più o meno 45 anni, insomma l'età delle madri di queste ragazzine, come per lavorare a specchio, e su questa base abbiamo fatto una prima versione radiofonica, un progetto del Teatro di Roma. Poi abbiamo fatto un laboratorio invece con un gruppo di attrici, autrici più o meno tra i 20 e i 30 anni, e abbiamo deciso di inserire anche questa generazione, per cui alla fine l'idea è di avere in scena attrici che vanno dai 13 ai 55 anni più o meno, cioè attrici di tutte le età, per raccontare quell'età come un'età dispositivo di passaggio, che in realtà è un'età che un'età inferiore, e così. Questo è il lavoro che stiamo facendo. Che riscontri ci sono stati finora? Che dialogo c'è stato con il pubblico? Abbiamo fatto vari passaggi, credo che possa essere anche molto disturbante, nel senso che è un testo che non dà nessun tipo di giudizio su quello che mette in scena, perché è ovvio che se uno si pone moralmente è ovvio che la gravidanza adolescenziale è un problema, e quindi penso sia un testo che pone abbastanza delle domande, e penso che per il pubblico femminile parli di cose così evidenti, così intime, un passaggio che è il passaggio alla vita sessuale, un passaggio che ognuno vive più o meno in solitudine o comunque senza la possibilità di confronto, e quindi penso che abbia un effetto anche catartico rispetto a questo. Lo spettacolo Come tutte le ragazze libere, un tentativo di libertà in una piccola città, in scena a Roma, al Teatro di Villa Torlonia, dal 16 al 19 novembre 2021. Saluto e un ringraziamento alla regista Paola Rota. A presto! Grazie. Con il regista Andrea Martella della compagnia Hangar Duchamp per presentare lo spettacolo Il cuore a gas di Tristan Tzara a Roma, Teatro Trastevere, dal 16 al 21 novembre 2021. Ben trovato! Buona giornata, grazie mille a te per l'ospitalità. Parlaci di questo progetto. È un progetto abbastanza ampio, di cui questo è un primo capitolo che è già andato in scena sempre al Teatro Trastevere nel 2018, un progetto di questa compagnia appunto chiamata Hangar Duchamp, che ho deciso di dedicare in qualche modo alle avanguardie di inizio Novecento, perciò nella mia mente c'è una trilogia dell'avanguardia. Questo è appunto il primo capitolo, quindi teatro dadaista, Il cuore a gas di Tristan Tzara. Il secondo capitolo è stato dedicato al surrealismo nel 2018 ed è stato Le mammelle di Tiresia di Apollinaire. Il terzo sarebbe dovuto essere nel 2020, ma sappiamo che c'è stata questa piccola cosa nel 2020 che ci ha un attimino fermato tutti e tutte, ed era dedicato alla metafisica con Alberto Savinio e il suo Capitano Ulisse. Per la riapertura dell'attività teatrale ho deciso di riprendere in mano il primo progetto, quindi di rimettere in scena Il cuore a gas di Tristan Tzara, perciò parliamo di uno spettacolo dadaista scritto da uno dei padri fondatori del dadaismo, forse il teorico più importante di questa folle avanguardia di inizio Novecento, e di questo si tratta. Di quest'opera cosa avevi apprezzato? Tutta una serie di cose. Faccio teatro da tanti anni, però ho una grande passione per l'arte contemporanea, per l'arte visiva, quindi avevo sempre conosciuto il dadaismo più per l'aspetto, ecco, strettamente legato all'arte visiva, no? Il famoso cesso rovesciato di Duchamp, che peraltro sta qui a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, così come i loro collage, il loro essere anticonvenzionali nell'arte, aver tentato di superare in tutti i modi la struttura del quadro, della scultura, no? Aver cercato di fare arte in tutti i modi possibili e immaginabili che non fossero convenzionali. Poi un giorno mi è capitato casualmente tra le mani questo libricino di teatro dada e ho detto: però in effetti, vedi, evidentemente c'è una declinazione anche teatrale di questa avanguardia, e sono andato fuori di testa, sono impazzito, perché così come loro hanno destrutturato all'inizio del Novecento il linguaggio artistico visivo, hanno destrutturato anche quello teatrale. Perciò parliamo di un'avanguardia che voleva rivoluzionare totalmente le convenzioni borghesi dell'epoca, siamo piena prima guerra mondiale, loro sono totalmente pacifisti, quindi già questo, no? Proprio completamente al di fuori della società e delle scelte della politica del loro tempo, si rifugiano tutti in Svizzera e da lì sono di paesi in guerra fra di loro, sono francesi, rumeni, tedeschi, si dovrebbero odiare, no? Per come sta la situazione in Europa. In quel momento invece si adorano, si amano, vogliono fare una rivoluzione totale, perciò ad esempio nel caso del teatro dicono: quali sono le regole del teatro che convenzionalmente nella borghesia dominante oggi in Europa si fa teatro in questo modo qui? Due punti, ci sono dei personaggi stabiliti, c'è una storia, c'è un linguaggio, tutto questo non va bene, perciò i personaggi devono essere molto fluidi, non ci deve essere per forza una costruzione psicologica come siamo abituati. Qui c'era appena stata la rivoluzione di Stanislavski, no? Perciò chiaramente un teatro che partisse dalla psicologia, che facesse vedere una struttura di un personaggio dall'inizio alla fine, in cui fosse chiaro proprio il suo percorso. Invece no, sembra quasi tutto nonsense e addirittura non c'è logica nel discorso, cioè uno fa una battuta, un personaggio gli risponde con una cosa che sembra non entrarci assolutamente niente con quello che viene detto prima, viene tutto totalmente ribaltato. Adesso sembra una cosa che non ha alcun senso, Tristan Tzara era un genio, perciò in realtà non è che non ha un senso, è semplicemente che loro hanno trovato un modo di rendere una struttura teatrale narrativa in modo diverso da quella alla quale siamo abituati. Hanno costruito una cosa che è stata definita, secondo me, in modo molto geniale, rumore bianco teatrale. Quindi lui, attraverso questa struttura lirica, queste parole sapientemente scritte con una genialità veramente molto rara, in realtà ha costruito una frequenza sulla quale un regista, un attore, un'attrice, ma anche uno spettatore può costruire la sua interpretazione, e sono scritte in modo talmente sapiente che sono in grado di sopportare qualunque interpretazione. Quindi io da regista ho preso questo rumore bianco teatrale, questo testo anche molto surreale ma estremamente dal mio punto di vista esilarante sotto molti aspetti, ho scelto un'interpretazione, l'ho sostenuta con la mia compagnia e portiamo in scena una storia che secondo me è ampiamente riconosciuta nella sua narrazione, nonostante le parole siano totalmente sconnesse e apparentemente senza senso. Come hai pensato la messa in scena? Io sono partito dal nome dei personaggi che Tristan Tzara ha attribuito appunto a queste entità, perché definirli personaggi è anche effettivamente un'operazione di senso importante, proprio perché sono molto fluidi. Lui li ha chiamati con nomi di parti del viso, quindi sono occhio, bocca, collo, sopracciglio, naso e orecchio. E io ho pensato che se lui li ha chiamati così, evidentemente un motivo c'era, però non volevo fare un'operazione anche qui banale, canonica, no? Cioè esaltare questo aspetto, perciò ho fatto il contrario, ho lavorato a togliere, perciò ho creato dei personaggi che per una scelta loro personale, in qualche modo anche masochistica se vogliamo, si privano della funzionalità relativa proprio al loro nome. Quindi ad esempio Bocca si imbavaglia perché è un personaggio che ha paura di dire sempre la cosa sbagliata e quindi preferisce non parlare. Occhio non ama la realtà che ha intorno a lui, quindi piuttosto che affrontare la vita preferisce bendarsi e non vedere e così via. Orecchio preferisce tapparsi le orecchie per non sentire le cose con le quali non è d'accordo nella vita, per non schierarsi preferisce non sentire. In qualche modo ho creato sei personaggi che sono dantescamente degli ignavi, che non hanno capacità di affrontare la vita in questo mondo fuori dal tempo e dallo spazio, fanno delle azioni che non capiscono perché le devono fare. In qualche modo mi ricorda un po' anche in un certo mondo del lavoro di oggi, no? In cui siamo costretti magari ad avere degli orari, a fare delle cose delle quali non capiamo il senso per arrivare molto banalmente alla fine del mese, cioè ecco, alla fine è fuori dal tempo e dallo spazio, ma forse un po' la società di oggi la ricorda, fino a quando non c'è una scintilla, e questa scintilla che mi è sembrato leggere nel testo originale di Tristan Tzara è in qualche modo un innamoramento che avviene in questo caso tra Occhio e Bocca, e nel momento in cui arriva questa scintilla di irrazionalità che è l'amore in questa società totalmente razionale e priva di senso, effettivamente nasce una rivoluzione che forse va a scardinare i meccanismi di questi personaggi e forse in qualche modo li rende liberi dalla loro schiavitù, li rende liberi di vedere, liberi di parlare, liberi di ascoltare, liberi di vivere la loro vita. Per saperne di più ci dai tutti i riferimenti web? La nostra compagnia si chiama Hangar Duchamp, quindi proprio anche nel nome rende un po' omaggio a uno dei grandi riconosciuti del dadaismo che è Marcel Duchamp. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram, anzi se volete prenotare io vi invito a scriverci privatamente sulle nostre pagine social che gestisco io direttamente in prima persona, quindi sia su Facebook che su Instagram ci cercate, ci scrivete lì, io vi prenoto i posti dal 16 al 21 novembre, dal martedì al sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 17. 7:30 in questo fantastico teatro che è il Teatro Trastevere di Roma. Il posto delle idee ed è veramente così, un posto dove si può fare anche un teatro così anticonvenzionale, particolare, viene accolto a braccia aperte. Posso dire anche i nomi degli attori, che mi sembra giusto: Walter Montevidoni, che fa la didascalia, che è un personaggio che non esiste, io ho messo dentro perché sono le didascalie originali di Tristan Tzara, che sono geniali anche quelle, quindi mi sembrava bello renderle personaggio. Poi abbiamo occhio Flavio Favale, bocca Simona Mazzanti, collo la grandissima Vania Lai, orecchio Edoardo La Rosa, abbiamo Vincenzo che fa naso e sopracciglio che è Giorgia Coppi. Lo spettacolo Il cuore a gas di Tristan Tzara. Il cuore a gas di Tristan Tzara, esattamente. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Martella. A presto. Grazie a te dell'ospitalità. Ciao ciao. Con Sergio dell'Autoradio di Perugia per presentare il Gemini Network, seconda edizione del Festival delle Radio Indipendenti a Padova, centro sociale occupato Pedro dal 19 al 21 novembre 2021. Ben trovato! Ciao, ciao a tutte e tutti e grazie per questo spazio. Raccontiamo com'è nato tutto. Siamo arrivati a questa seconda edizione dopo un percorso molto lungo. Gemini Network è nato dalla cooperazione e dalla voglia di sperimentare da parte di diverse realtà radiofoniche indipendenti, web radio sparse in giro per tutta Italia. Arrivati a un certo punto si è pensato appunto di fare un festival delle radio indipendenti che ha avuto la prima edizione proprio a Perugia, la città dell'autoradio. È una prima edizione che è andata anche molto bene, arrivata in un periodo molto complesso, complicato della pandemia, ma che appunto è riuscito ad esprimere qualcosa. Questa seconda edizione ha l'ambizione di rilanciare ulteriormente. È stato un anno comunque in cui il network non si è assolutamente fermato, ha prodotto contenuti, ha prodotto anche proprio un modo di cooperazione, un modo di stare insieme, un modo di produzione proprio tipico di questo network, e si è arrivati appunto a questa seconda edizione del festival. Quali sono le parole d'ordine? Il fare radio e il diritto d'autore. Ci siamo un po' concentrati su questa doppia tematica. In che senso? Il fare radio è più o meno un modo che utilizziamo per indicare tutto quello che circonda il mondo della radiofonia indipendente, quindi dai contenuti alle modalità, appunto tutto quello che circonda questo mondo della radiofonia. Avremo degli interessantissimi workshop proprio a proposito, che serve anche per dare proprio degli strumenti pratici per poi approcciarsi alle web radio, comunque ai vari strumenti della radiofonia. Diritto d'autore è l'altra macro area, è un ambito in cui bene o male stiamo ragionando da tanto tempo. Abbiamo intenzione di approfondire ancora di più questa tematica partendo da appunto anche qui dibattiti, approfondimenti. Lo faremo con personalità anche molto molto preparate sul tema che riteniamo comunque centrale parlando di radio, proprio perché si va a parlare comunque non solo di radiofonia in termini stretti, ma proprio anche di tutto l'apparato, poi di quello che sono i diritti che circondano appunto il fare radio. Pensiamo che attraverso questo doppio binario possiamo in qualche modo esprimere la complessità di quello che è il network, appunto non solo fare la singola trasmissione, ma è anche tutto il mondo che gli sta attorno. Quante sono le strutture che partecipano? Sono diverse e anche un numero che tende ad aumentare fortunatamente. Come dicevo all'inizio, le realtà vanno dall'estremo sud all'estremo nord. Questo è una cosa che comunque ci fa molto piacere, perché vuol dire che il network riesce ad esprimere effettivamente una trasversalità proprio che va al di là poi di quelle che sono le istanze più territoriali. Saremo un buon numero all'interno della cornice del centro sociale Pedro, che non potevamo chiedere posto migliore, dato che parlando di indipendenza, parliamo di costruzione dal basso di percorsi e di auto-organizzazione, ci troviamo perfettamente all'interno di questo spazio. Saremo tutte e tutti lì proprio in questa formula cooperativa, proprio per esprimere il lavorare in rete, il networking, quindi non tanto le singole radio che portano i singoli contenuti, ma le persone delle radio che creano contenuti made in Gemini, contenuti nuovi proprio per esprimere questa trasversalità, appunto. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più, per i dettagli? Innanzitutto il sito www.gemini.it, lì troverete tutti gli articoli in aggiornamento, troverete le varie informazioni del caso, i nostri profili social, sia Instagram che Facebook, dove stiamo pubblicando tante cose, stiamo facendo anche lì un lavoro di comunicazione molto molto importante, e poi ovviamente in maniera estremamente capillare su i vari siti, le varie pagine, i profili social di tutte le radio che parteciperanno. Seconda edizione del Gemini Festival delle radio indipendenti a Padova, centro sociale occupato Pedro, dal 19 al 21 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Sergio dell'Autoradio di Perugia. A presto! Grazie a voi e a presto! Con l'artista Francesca Fini per presentare il suo libro, Francesca Fini, Cyborg Fatale, performance e video tra reale e virtuale dal 2011 al 2021, martedì 16 novembre a Roma, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Francesca, ben trovata! Ciao! Raccontaci un po'. Era tempo di cercare di raccogliere tutti i lavori che ho fatto negli ultimi 10 anni e creare una pubblicazione che potesse essere esemplificativa di questo lavoro e che potesse in qualche modo mostrare quello che ho fatto in questo periodo. Era un progetto a cui lavoravo da tempo, ma poi c'è stata in mezzo questa pandemia devastante e quindi alla fine non siamo riusciti a portarlo in porto. Però insomma comunque è un progetto che era in cantiere e un progetto a cui collaborano i curatori, gli storici con cui ho lavorato in questi anni, che sono innanzitutto Loria Dragna, questa grandissima, preparatissima curatrice di performance con un focus proprio sul lavoro delle artiste italiane donne, che ha lavorato con me a numerose performance e che introduce la sezione del libro che riguarda la performance, perché il libro poi è diviso in 3 sezioni che sono video arte, performance e film sperimentale, che sono i campi in cui io mi muovo, e ogni sezione è affidata appunto ad un critico, quindi a Loria Dragna per la performance, Giacomo Ravesi per la videoarte, Adriano Pra per il cinema sperimentale, il tutto con l'introduzione e la curatela generale di Bruno Di Marino. Guardando indietro in questi 10 anni, nella ricerca che hai fatto, che impressioni hai avuto? Facendo questa sorta di sguardo retrospettivo, retroattivo, con il senno di poi rispetto al mio lavoro, trovo degli elementi che sono sempre lì, che sono sempre stati, che probabilmente rappresentano un po' la mia ossessione, cioè quello di ibridare i linguaggi. Questo è l'elemento costante. Dai primi lavori, a volte quando si guarda indietro, le cose che abbiamo fatto all'inizio non ci piacciono. E in effetti poi questa pubblicazione è stata anche un po' l'occasione di fare un po' di pulizia, di mettere insieme le cose che sono più significative, e questi lavori che sono più significativi hanno comunque un marchio comune, e cioè quello dell'ibridazione dei linguaggi. Quello che è una costante di questi lavori è il tentativo di mettere insieme in un linguaggio altro, nuovo, linguaggi che sono tra loro molto diversi, apparentemente addirittura conflittuali. Basti pensare al video e alla performance, che sono 2 linguaggi concettualmente completamente diversi, che si muovono in ambiti diversi. E quindi questo tentativo di creare attraverso i lavori dei momenti in cui magicamente questi linguaggi differenti e conflittuali convivono, in maniera però armonica, senza forzare la mano, senza per esempio spingere troppo sulla tecnologia piuttosto che sulla body art, cioè cercando un equilibrio in questi diversi linguaggi. Quindi questo è sicuramente l'elemento che mi caratterizza, ed è per questo poi che il mio lavoro è così diverso. Quindi ci sono animazioni 3D e opere di body art pura, estremamente minimaliste, proprio perché c'è questa continua ricerca sul linguaggio. Un'altra cosa che secondo me si può evincere leggendo questo libro è la componente visiva, cioè la mia ossessione nei confronti della perfezione del dettaglio. Questo potrebbe essere un'arma a doppio taglio, ma è la cosa che mi caratterizza, cioè la forza visiva delle immagini e la forza visiva di ogni singolo frame, la forza visiva di ogni singolo scorcio di un lavoro dal vivo, e questo traspare dalle foto che sono state fatte. E quindi questo è un altro elemento che in qualche modo mi caratterizza, guardando il mio lavoro con un occhio esterno e imparziale per quanto possibile. Come si caratterizza la presentazione? Come si articolerà? Ci saranno naturalmente gli autori, quindi Loria Dragna, Adriano Praggia, Comoravesi e Bruno Di Marino. Bruno Di Marino introdurrà il dibattito e poi chiaramente ognuno degli autori del libro mi farà delle domande o comunque farà delle riflessioni con me sulla sua sezione particolare. Poi chiaramente daremo poi la parola al pubblico per domande eventuali. Per riferimenti e maggiori dettagli in rete? Un evento Facebook, sulla mia pagina Facebook, Francesca Fini, ci sono degli articoli online e poi penso che ci siano anche dei riferimenti sul sito della Galleria Nazionale. Il libro Francesca Fini, Cyborg Fatale, performance e video tra reale e virtuale dal 2011 al 2021, una presentazione a Roma, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, martedì 16 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento all'artista Francesca Fini. A grazie. Presto! Ciao ciao ciao! Con Simone Nebbia di Teatro e Critica siamo all'agenda della settimana. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Andiamo a vedere un po' di che cosa si parla a Roma in questa settimana e dunque andiamo immediatamente ad aprire con il Teatro 2 che presenta Claudio Casadio con L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, un'idea di Francesco Niccolini, l'autore e la regia di Giuseppe Marini. L'Oreste sembra un monologo, cioè un solo attore in carne rossa, ma all'interno dell'opera ci sono anche le illustrazioni, i disegni di Andrea Bruno che in collaborazione con il Festival Lucca Comics realizza questo lavoro tra teatro e fumetto animato. Questo è molto interessante, dal 16 al 28 novembre al Teatro 2 per Expo Teatro con L'Oreste. Andiamo a vedere l'inizio del Festival Mauro Rostagno all'Accademia dell'Antimafia. Si tratta di un festival che comincerà ieri sera e sarà in scena fino al 21, quindi fino a domenica, ma poi c'è anche una parte della settimana successiva, quindi poi ne riparleremo ancora. Segnalo questa settimana un po' di lavori interessanti, sicuramente il ritorno stasera della compagnia Ragli con Pane Nostro, ma anche l'arrivo a Roma della compagnia Scena Verticale, Dario De Luca, giovedì 18 con Re Puzzu Fatto a Manu, che insomma credo di aver pronunciato discretamente, e forse ecco a Fortezza Est che presenta, ma al teatro Bibliotica Quarticcioli, in collaborazione sabato 20, Togliatti Monamur. Quindi tra l'Accademia che sta sulla Camino Togliatti e il teatro Quarticciolo, più o meno il quartiere è lo stesso, andremo a vedere questo festival. Invito ad andare sul sito delle compagnie dell'Accademia per vedere il programma completo. Ci sarà anche il concorso del premio Mauro Rostagno, che sarà proprio nel weekend, sabato e domenica, con alcuni spettacoli in lizza per la vittoria. Per ciò che riguarda invece il Teatro di Roma, andremo certamente a vedere in prima assoluta da domani fino al 9 dicembre Giorgio Barberio Corsetti che presenta Amleto di William Shakespeare con la traduzione di Cesare Garboli, va detto perché è importante. E ci saranno molti attori come Michelangelo Dalisi, Sara Putignano, Mimosa Campironi, Dario Caccuri. È uno spettacolo, una produzione del Teatro di Roma ed è appunto la rilettura della tragedia shakespeariana che Corsetti situa in un gioco di scatole sceniche che fabbricano l'immaginaria reggia danese in cui si svolge la tragedia, dove Amleto aspetta il pubblico all'inizio dello spettacolo. Quindi una lettura dell'Amleto, di un classico come Amleto, dal 17 novembre al 9 dicembre al Teatro di Roma, Teatro Argentina. Al Teatro Vascello invece andremo a vedere il debutto a Roma nell'ambito del Roma Europa Festival da ieri sera, in realtà fino al 21 novembre, Una Cosa Enorme di Fabiana Iacozzilli, un lavoro molto importante dedicato alla nostra condizione di uomini e donne perennemente in bilico tra il voler essere madri e padri e il restare figli. Questo il tema offerto da Fabiana Iacozzilli che appunto andrà in scena al Teatro Vascello fino a domenica 21. Al teatro, attenzione che adesso mi sto, rischio di perdermi, oh no, eccoci qui. Dal 17 al 21 novembre invece l'occasione per andare a vedere 89, l'ultimo spettacolo di Frosini Timpano, sarà in scena al teatro India, dopo aver fatto già delle date nella scorsa, alla fine della scorsa stagione. Siamo nel 1789, la rivoluzione francese tocca e cambia tutta l'Europa, fondando il mondo in cui viviamo. Cosa mi rimane 230 anni dopo? Questo è il legame tutto politico che lega questo spettacolo alla contemporaneità. Si immerge in questa, ci dicono, infanzia della democrazia e della modernità, per andare a vedere un po' qual è l'apparato della cultura occidentale. Quindi un lavoro molto importante che cerca di entrare all'interno dell'immaginario politico attuale, ma andando a ritroso dalla Rivoluzione francese fino ad arrivare probabilmente a quello che è il numero del titolo, cioè 89, dal 1789 al 1989, cioè l'anno in cui sono cambiate le democrazie occidentali, l'anno in cui è cambiato anche l'equilibrio europeo con la chiusura, diciamo, la caduta del blocco sovietico e con il conseguente cambiamento dei partiti comunisti europei. Per ciò che riguarda invece Fortezza Est, dal 18 al 20 novembre andremo a vedere La vita salva di e con Silvia Frasson, l'autrice toscana, ci presenta questo spettacolo che nasce in conseguenza del fatto che si è dovuta confrontare con la perdita di persone più o meno vicine, quindi con la morte improvvisa e inaspettata. Questo è il tema, c'è cioè una bambina che scrive i suoi sogni in un quaderno, una donna di 60 anni che torna ragazzina. Questo è il rapporto tra madri e figli, tra il confronto con la paura e con il tempo che passa, sul palco della Fortezza Est, 18-20 novembre. Poi ancora andiamo al Teatro Ambra Iovinelli, perché dal 16 al 28 novembre andremo a vedere Laura Morante con Io Sara, Io Tosca, uno spettacolo che lei dirige e che diretto da Daniele Costantini narra la vita della celebre attrice Sara Bernard nei giorni precedenti il debutto della Tosca di Victorien Sardou, in un flusso continuo di recitazione, azione e musica avvincente. In scena ci sarà anche Chiara Catalano, impegnata nell'esecuzione al pianoforte della musica composta da Mimosa Campironi. Ambra Iovinelli, 16 e 28 novembre, con Laura Morante. Al Teatro di Roma andremo a vedere anche, a Teatro Argentina, dal 15 novembre, l'impresa fantastica dell'attore Giorgio Colangeli, Un corpo a corpo con la Divina Commedia, che verrà recitata tutta a memoria in vari appuntamenti. Si comincia il 15 novembre alle ore 19 con I canti dall'1 al 13 dell'Inferno. Si prosegue il 21 novembre con la seconda parte di I canti, poi insomma seguirà nelle settimane successive fino al 13 dicembre. Quindi chi non avesse mai visto Giorgio Colangeli leggere la Divina Commedia è questa l'occasione per farlo. Dunque, andiamo ancora a vedere qualcosa, sì, sicuramente Carrozzeria Not per il debutto romano, sì, probabilmente la prima volta che lo fanno a Roma, di Arturo, vincitore del premio scenario Infanzia, finalista di In Box, lo spettacolo di Niccolò Matkovic, che insieme a Laura Nardinocchi, è appunto questo spettacolo che ha anche questo un rapporto con la perdita dei propri padri. Due registi e autori condividono lo stesso dolore. Qui nasce l'esigenza di stare in scena senza la mediazione degli attori, lavorando su due differenti piani, quello dei padri che si raccontano in prima persona e quello in cui emerge il punto di vista dei figli. Questa settimana debutta anche al Teatro Stanze Segrete uno spettacolo di Matteo Pasanella, Giovanna Dark, che sarà in scena fino al 28 novembre, debutto è questa sera, 16 novembre, ed è un lavoro piuttosto interessante, racconta appunto la vicenda della Pulcella d'Orleans, Giovanna d'Arco, visionaria, eretica, medium, condottiera, strega, chissà, è una santa. 478 anni dopo andiamo a vedere qual è stata la vicenda che ha mosso la Giovanna d'Arco alla passione più forte che Donna d'Europa abbia conosciuto. Ma attenzione, perché Il titolo ci suggerisce che questa Giovanna non è una Giovanna d'Arco, è una pietrificazione un po' diversa, in bilico tra oscuro e divino. Questa Giovanna Dark, Dark oscuro, Dark segreto. Andiamo a vedere alle stanze segrete fino al 27 di novembre quello di cui si parlerà. Poi andiamo anche al teatro India ancora, perché dal 19 al 21 è l'occasione per tornare a vedere Giorgina P, la regia Giorgina P, con Gabriele Portoghesi per Tiresia, sul progetto di Blue Motion, dal testo Hold Your Own, Resta Te Stessa di Kate Tempest, una performer in scena, ci sono dei piatti del DJ, un microfono, dei listi, e Tiresia che porta in scena il testo del poeta, rapper e performer londinese Kate Tempest, lo fa vivere in una drammaturgia che è simultaneità, trasformazione, intuizione. Questo andremo a vedere al Teatro India dal 19 al 21, mentre invece, sempre per quanto riguarda il Teatro di Roma, da questa sera fino al 19, uno spettacolo di Paola Rota con il testo in realtà di Tania Slivar, Slivar credo si pronunci in questo modo, Come tutte le ragazze libere, un tentativo di libertà in una piccola città. La ricordiamo quella vicenda delle 7 ragazze di 13 anni che sono rimaste incinte tutte insieme durante una gita scolastica, 7 scene, 7 monologhi che fanno da cornice a questo dramma, in cui l'unica costante è l'inaffidabilità delle giovani quando si tratta di ricordi e dichiarazioni. Teatro Torlonia, 16-19 novembre, per questo lavoro di Paola Rota. Tra le premesse, mercoledì 17 novembre, domani, Il Vagabondo delle Stelle, uno spettacolo in anteprima nazionale tratto dai racconti di Jack London con Francesco Pennacchia. Da bambino eri una coscienza e un'identità in mutamento che si andava formando e che nel formarsi imparavano a dimenticare. Questo è quello che emerge dalle parole di Jack London, autore del romanzo The Star Rover, e il lavoro teatrale ne è una esplorazione. Questo spettacolo fa parte della rassegna Puro Teatro della compagnia Teatro Remis, Andrea Fazzini e Angela Antonini. Andremo a vedere poi più avanti anche altri lavori di questa rassegna e per il momento è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.